Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Londra, la confessione di Alex Schwarzer: ho fatto da sole comprando i farmaci in Turchia. Tramonti e PDL, posizioni ancora distanti, casini, rischi reali, serve ora una nuova coalizione. L'Italia è maglia nera su evasione fiscale e tangenti, dice Confcommercio. Siria, il dramma di Aleppo, morti e migliaia in fuga. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, dalla redazione di Radio 24. Ho fatto da solo comprando i farmaci in Turchia, così la confessione poco fa di Alex Schwarzer, che rischia ora la dura condanna anche del CONI dopo l'esclusione da Londra nel 2012 per doping. Avevo già deciso che non sarei partito per le Olimpiadi, ha detto poco fa il suo racconto in una sofferta conferenza stampa a Bolzano. Con le intercettazioni e tutto, nessuno in Italia può passare inosservato facendo queste cose. Per quello che ho scelto di acquistarla all'estero, di informarmi da solo e consumare questa cosa all'estero. In Turchia sono andato a settembre perché uno si informa su internet e, come forse lei sa, in Italia ci vuole la ricetta. Invece se tu vai in paesi, diciamo, un po' più poveri e metti... Io avevo 1500 euro che poi avevo cambiato in lira turca, vai in farmacia e li metti sul tavolo, ti posso assicurare che non fanno tanti problemi a darti le cose che tu vuoi. Il problema è che io non sono fatto per drogare, per imbrogliare. E a un certo punto io psicologicamente e moralmente non ce l'ho più fatta. Ma io bastasse che dico a mia madre non aprire il 30, non avrei fatto un controllo, sarebbe stato un controllo mancato, non sarebbe successo niente e potevo fare tutto quello che volevo. Però ci tengo a dire che sono sicuro che anche se questo non fosse successo, io alle Olimpiadi non ci sarei andato, perché io non trovavo la forza di farla 20 per tutto questo periodo. Intanto gli azzurri riprendono il loro impegno alle Olimpiadi di Londra. Oggi le nazionali maschili di pallavolo e pallanuoto si giocheranno l'accesso alla zona medaglie. In diretta Dario Ricci. Sì, buongiorno da Londra, Daniele. È davvero difficile parlare di queste Olimpiadi dopo aver sentito le parole di Alex Schwarzer. Beh, proviamo però a farlo perché ce lo impone la cronaca. E allora, dopo la delusione di ieri dell'Ital Volley donne eliminata ai quarti di finale ancora una volta, stavolta per mano della Corea del Sud, 3-1 per le coreane che nelle semifinali affronteranno gli Stati Uniti, nell'altra semifinale sfida tra Brasile e Giappone. Puntiamo forte sugli uomini, sempre sotto rete, contro i campioni in carica, contro quegli statunitensi che quando vedono i cinque cerchi danno tutto in campo e puntano dritti al podio. Campioni in carica gli americani, l'Italia di Berruto cerca l'impresa per entrare nel giro delle medaglie, stessa impresa richiesta al sette bello della pallanuoto, campione del mondo in carica, che trova alle 19.40 italiane, mentre la sfida della pallavolo sarà alle 17, la sfida contro l'Ungheria. Ungheresi campioni in carica da ben 3 Olimpiadi consecutive, sarebbe ora che cedessero lo scettro, e perché non farlo proprio alle azzurre di Sandro Campagna. Staremo a vedere, per il momento è tutto da Londra. Grazie mille Dario Ricci, buon lavoro. Non si placano le tensioni tra il Premier Mario Monti e il Popolo della Libertà. Oggi il Premier ha programmato una serie di incontri con i leader della maggioranza. Qual è la situazione, Vincenzo Miglietta? Buongiorno, maggioranza ancora in bilico dopo lo strappo di ieri del Presidente del Consiglio sullo spread. La telefonata di Monti a Berlusconi ha di fatto messo una toppa ad un rapporto, quello con il Popolo della Libertà, che sembra ormai logoro. La riprova è la reazione a caldo ieri di deputati e senatori del PDL in Parlamento, che hanno mandato sotto l'esecutivo su un ordine del giorno e fatto mancare il numero legale a Palazzo Madama. Oggi ci sarà la possibilità di un ulteriore chiarimento tra il professore ed Alfano, e due si vedranno nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Una appuntamento questo già in calendario e che rientrava nelle consultazioni volute da Monti con PDL, PD ed UDC prima della pausa estiva, e questa mattina Monti ha visto proprio Casini, sentirà poi telefonicamente Bersani. E proprio Casini è tornato sull'intervista del Premier al Wall Street Journal, sentiamo allora il pensiero del leader centrista. Il problema vero è che ha detto la verità. Cioè, se noi avessimo avuto ancora Berlusconi a Palazzo Chigi, noi credo che l'Italia oggi sarebbe nelle condizioni della Grecia. Lo spread non so se sarebbe al 1200, 1300 o 1100, questo probabilmente non lo sa nessuno, ma certamente Monti ha evitato una situazione catastrofica per l'Italia. Dal Popolo della Libertà a replicare però Gasparri, che dice i risultati del governo Monti sono disastrosi e ora che il governo tecnico chieda scusa. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Le imprese non sembrano ricevere molti aiuti dalle banche. Secondo Banca Italia rallentano i finanziamenti concessi alle aziende. Una frenata nella frenata e Banca Italia alza per l'ennesima volta la voce. I prestiti delle banche alle imprese languono, anzi peggio, sono negativi per il secondo mese consecutivo. A giugno, secondo i dati di Palazzo Koch, i finanziamenti alle società non finanziarie sono diminuiti dell'1,5%. A maggio il calo era stato di poco al di sotto di mezzo punto percentuale. Ma non è che nei mesi precedenti le banche avessero brillato per disponibilità verso le imprese. Il rallentamento è cominciato mesi fa, nonostante le iniezioni di liquidità della Banca Centrale Europea, di cui gli istituti di credito hanno approfittato ampiamente. Stretta anche per le famiglie, non siamo ancora a variazioni negative, ma il calo è netto dall'1,3% di maggio allo 0,8% di giugno. E tutto questo nonostante il miglioramento della raccolta, costante ormai da qualche tempo. Gli ultimi numeri raccontano di un incremento dei depositi che sfiora il 3%, in crescita anche la raccolta obbligazionaria. Vero è che qualche grattacapo arriva dalle sofferenze creditizie, ma rientra nel lavoro di una banca avere a che fare con i rischi legati ai prestiti, ammesso che per le banche prestare sia ancora tra le attività principali. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ministro del welfare Elsa Fornero interviene oggi sul caso Ilva e giudica equilibrata la decisione di ieri del Tribunale di Taranto. Sentiamola. Questa sentenza dà a tutti l'occasione, anzi direi richiede a tutti l'impegno di collaborare in modo immediato, vorrei dire cogente, per far sì che l'operazione di bonifica possa avvenire in tempi rapidi per ridare serenità a tutte quelle famiglie che dall'attività dell'Ilva dipendono. Io credo che i lavoratori dell'Ilva siano in larghissima misura operai e quindi qui c'è anche una questione di identità di una classe operaia che viene messa a rischio e alla quale bisogna ridare dignità. L'Italia all'ultimo posto per efficienza del sistema della giustizia tra i 26 paesi considerati da uno studio di Concommercio che è basato su dati del World Economic Forum e della Banca Mondiale. In questo studio dedicato alle cause dell'economia sommersa, il nostro paese risulta al quarto posto dopo Slovacchia, Messico, Grecia per pagamenti irregolari e soprattutto per tangenti. Ora veniamo con Deborah Rosciani ai mercati finanziari. Mercati negativi oggi in Europa, non in maniera preoccupante, ma in ogni caso c'è uno stop ai rialzi degli ultimi tre giorni. Meno 0,4% a Milano, meno 0,67% a Parigi, meno 0,56% a Francoforte, Londra meno 0,51%. C'è una buona notizia che arriva dalla Spagna, perché sembra che Bruxelles e Madrid stiano valutando una iniezione anticipata di fondi a Bankia e ad altri istituti spagnoli nel quadro degli aiuti europei fino a 100 miliardi di euro decisi a luglio per sostenere il sistema bancario spagnolo. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia iberico e la notizia ha fatto balzare il titolo di Bankia quotato a Madrid di quasi 10 punti percentuali. Lo spread fra BTP e Bund questa mattina è ritornato sopra i 450 punti base, però appare tutto piuttosto tranquillo a 454. Oggi ricordiamo che sui mercati si è calata anche una nuova scure di un'agenzia di rating che ha deciso di tagliare nella notte l'outlook e quindi la prospettiva sulla Grecia da stabile a negativo. Arrivano oggi dati macroeconomici importanti dagli Stati Uniti, il primo è già arrivato, meno 1,8% di richieste di mutui nell'ultima settimana. Infine il rapporto euro-dollaro, siamo a 1,2359, è tutto. La pagina internazionale non si placca l'attacco dell'esercito contro i ribelli ad Aleppo in Siria. L'esercito avviato un'offensiva via terra nel quartiere di Salah ad-Din e prima che facesse il giorno le forze fedeli al regime di al-Assad sono tornate a bombardare pesantemente la città. In Siria c'è Alberto Negri. Mi trovo in questo momento in Sadallah Square, una piazza nel cuore di Aleppo, vicino alla famosa acropoli che domina la città. I carri armati di Bashar Assad hanno appena lanciato un'offensiva nel quartiere dei ribelli di Salah ad-Din. Secondo le forze di sicurezza, i governativi starebbero già controllando il 15-20% del quartiere dove sono in corso da settimane i combattimenti più feroci di questa guerra civile siriana. Secondo alcune fonti i ribelli oggi avrebbero abbattuto addirittura un MIG governativo mentre un razzo è cascato su un'abitazione di Aleppo e avrebbe ucciso almeno 12 civili. In realtà gran parte della città, a parte questi quartieri caldi, sembra tranquilla, in un Ramadan assolutamente paradossale dove da una parte si combatte in una parte della città e nell'altra la vita sembra quasi scorrere normalmente. Io ho attraversato tutta la strada che va dall'aeroporto al centro della città, ai quartieri di Bab al-Bab, il quartiere di Bidan, dove ci sono ancora molti negozi aperti. I cittadini di Aleppo riempiono gli aeroporti e i voli per andare via, ma non c'è quella fuga che sembrava potesse essere prevedibile in queste ore. Certamente l'atmosfera è molto tesa e si sta preparando la battaglia decisiva per la città. Grazie Alberto, lo sentiremo naturalmente non appena sarà possibile, non appena ci saranno, ogni tanto ci sono problemi con le linee naturalmente e con la Siria. L'esercito egiziano ha lanciato un attacco nel Sinai, nei pressi del confine con Israele, nell'azione sono stati uccisi 20 persone, si tratta di un'azione in risposta all'attacco del comando che domenica scorsa aveva attaccato un posto di confine tra Egitto e Israele uccidendo 16 guardie di frontiera. La cronaca: l'esplosione di una bombola di gas ha distrutto l'auto di un carabiniere quest'oggi a Palermo. Alla vettura sarebbe stato prima appiccato il fuoco che ha fatto deflagrare la bombola e gli inquirenti legano l'attentato all'attività del militare e escludono che si tratti di un atto intimidatorio della mafia. Veniamo in chiusura, il Festival Cinematografico di Locarno. So, I have some news. Dale asked me to marry him. That's insane. Sboccate, disinibite, tutte sesso e gridolini. La brava ragazza americana non esiste più dai tempi di Sex and the City, ma adesso ci si mette anche il cinismo e il linguaggio da scaricatrici di porto. Il film Bachelorette sbarca al Festival di Locarno ed è già un caso. Tre amiche si incontrano per le nozze di una compagna di scuola e si abbracciano tra squitti e decibel isterici, mentre Becky, la sposa, taglia extra large, è l'unica ragazza all'antica che, malgrado la stazza, ha trovato un buon partito. Le ragazze agiscono e parlano da imbarazzare perfino i ragazzi. Katie si fa di alcol e cocaina, Gina usa un linguaggio che farebbe impallidire un camionista e Reagan finisce in un bagno pubblico con uno degli invitati. Per la regista Leslie Headland, le trentenni americane sono così ossessionate dal pensiero fisso di essere belle e magre, tanto che molte spettatrici hanno preso il film per un documentario. Del resto, il libro più venduto dell'estate anche in Italia è 50 sfumature di grigio di L. James, storia erotica dal risvolto sadomaso ambientata a Seattle, che sarà presto un film per sancire definitivamente l'addio alle buone maniere delle eroine di Jane Austen. Shut up! I hate you! I hate you! I'm gonna walk in and wear my pajamas like a Michael Jackson. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il racconto dall'Italia e dal mondo termina qua. Vi saluta qui Daniele Biacchesi. Vi ricordo alle 14 le prossime notizie.